tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, scusate il ritardo, ma avrete capito dalla diretta che precedeva che c'era qualcosa di più importante oggi e ci sarà anche nei prossimi giorni rispetto all'attualità calcistica. Insomma, ci sono tanto da noi, no, in questo microcosmo, adesso va di moda il tavolo, no? Mi sembra che questo sia la nuova parola d'ordine, il nuovo slogan di questo mondo del calcio italiano che non riesce a uscire dalle secche e che soffre, come ha detto giustamente ieri il presidente del CONI, soffre di questo virus da doping legale. E allora intanto comincerei con una buona notizia, perché Zeman è uscito dall'ospedale stamane poco dopo le 9. Ha trascorso una notte di ricovero per una colica renale da cui era stato colpito ieri, ma come è uscito si è fatto accompagnare al centro sportivo Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo, e cioè a Pescara, per dirigere regolarmente l'allenamento della squadra. Restano invece gravi purtroppo le condizioni di Aldo Agroppi, che è ricoverato da ieri per un infarto all'ospedale di Livorno, e tra l'altro riflettendoci è veramente un destino incrociato abbastanza crudele. Se c'erano due polemisti nati che assolutamente non andavano d'accordo e che si beccavano in continuazione, erano il compianto professor Scoglio e quella linguaccia di Aldo Agroppi. Alivella, quella che Totò chiamava Alivella, ha voluto che il primo abbia trovato la morte in diretta televisiva, addirittura nel corso di un programma di una televisione locale, e che l'infarto abbia colpito Aldo, e speriamo che l'esito sia davvero diverso, nel corso ieri mattina di una diretta radiofonica. Do il bentornato con enorme piacere ad Alberto Bortolotti. Buongiorno Alberto. Ciao Gigi e buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori. Stefano da Udine scrive: il nuovo governo Monti inizia male, ci ha fatto perdere 15 minuti della sua trasmissione. Questo è un grande complimento, Stefano, di cui la ringrazio, però mi creda, ne perderemo tanti altri volentieri per sentir parlare. Per sentir parlare il professor Monti e per provare a rimettere in carreggiata questo. Se lui sia qualcosa, saremmo molto lieti di aver offerto questo obolo. Certo, offriamolo con grande piacere. Ad Alberto, io vorrei cominciare da te, dalla tua saggezza, per sentire che effetto ti fa questo fiorire di tavoli improvvisi in un mondo del calcio che non sa più come fare a scannarsi, e poi quando arriva davvero al momento della verità, perché vicinissimo al punto di non ritorno, perché mi pare che quando il presidente del CONI usa espressioni e toni come quelli di ieri in risposta ad una richiesta danni alla Federcalcio da parte della Juventus per 443 milioni, mi sembra che si sia su un punto di non ritorno. A quel punto, quando anziché fare la voce grossa uno solo, la fa anche la controparte, allora scatta o tavolo. Com'è sta storia? Ma guarda, la faccenda sarebbe comica se non fosse molto deprimente, almeno dal mio punto di vista. Cioè, è una vicenda che è nata male, d'altra parte non è che da Calciopoli potessimo attenderci frutti copiosi e gratificanti, però è nata male con quella fretta di assegnare uno scudetto che io, senza entrare nel merito, proprio non avrei assegnato. Mi sembrava il caso tipico di non assegnazione, se mai ce n'è uno, perché la vicenda era chiaramente irregolare nella sua generalità, ma era troppo presto per arrivare, e forse non ci arriveremo mai, a una identificazione delle responsabilità e dei vari gradi di responsabilità. Purtroppo, come sempre da noi, prevale l'uovo oggi sulla gallina domani. L'uovo era non perdere un posto in Europa, e abbiamo preferito perdere la faccia piuttosto che un posto in Europa, decidendo a tamburo battente. Da lì è nato poi tutto il resto. Io non voglio sapere neanche chi abbia ragione, perché sono convinto che non l'abbia nessuno. Il ragionamento di chi pretende qualcosa è che in fondo lo facevano anche gli altri, non potendo arrivare a dire noi non lo abbiamo fatto, ecco. Quindi mi sembra tutta una vicenda che, tavolo o non tavolo, bisognerebbe nascondersi sotto il tavolo, certo. Un po' tutti i protagonisti, bravo. E lasciare perdere, insomma, onestamente mi sembra che sotto il tavolo punto, mi fa ridere, cioè l'unico qua a Bologna c'è il l'ex presidente Gazzoni che ci ha rimesso non poco certo. sul piano personale, non dico che non fosse che fosse esente da colpe, ma insomma se erano colpe sportive, e invece il pagamento è avvenuto sotto altri profili, e sentire parlare che altri chiedono risarcimenti plurimiliardari, vabbè, mi farebbe ridere se non mi facesse piangere, certo. Quindi la tua tesi è non il tavolo, sotto il tavolo e ripartiamo da zero come se non fosse successo niente, e sipario appena possibile, sì. Senti, per trovare un po' di riscatto all'immagine del calcio italiano, mi pare che non sta dando nemmeno adesso grande spettacolo di sé, sto parlando di quelle serie, di quei tavoli, no? Sì. Anche se mi verrebbe, no, non la dico, quella del tavolaccio, perché più che no, per come si sono lette le sentenze fino adesso, forse era più da tavolaccio che da tavolo, sì, ma sì, insomma, questo, anche questo può essere un altro discorso. Andiamo a vedere, andiamo all'estero e mettiamo insieme, oltre al lavoro che sta facendo Prandelli, al di là dell'intervallo, della sospensione dell'altra sera, andiamo a vedere anche il lavoro che ha fatto Capello e direi soprattutto Trapattoni in Irlanda, e prendiamo buona nota che anche la vecchia guardia, non solo la nouvelle vague dei tecnici italiani, sta continuando a farsi onore nel mondo. Ma certo, io credo che a quel livello sia, se ci fosse un ranking anche FIFA, anche per il reparto dei tecnici, credo che l'Italia sarebbe al primo posto adesso, cioè c'è una fioritura, poi non è che siano tutti nuovi, l'ultimo è Mancini, quello di mezzo è Ancelotti che ha vinto poi poco fa uno scudetto storico in Inghilterra. Anzi con una specie di doppia o triplete, non proprio murignano ma quasi. E poi c'è il Trap, dai, Giovanni è inimitabile, penso che lui, avendo vinto ormai scudetti dovunque, porta questa Irlanda a una fase finale di un europeo dopo che gli è stato scippato in modo vergognoso la chance mondiale. Onestamente, pensando ai suoi successi in Italia, in Austria, in Portogallo, in Germania, in Irlanda, vabbè, ma questo è un personaggio irripetibile. Poi col gatto in inglese è stato straordinario. Diciamo. Anche per questo entusiasmo che continua a generare, e anche per la scelta dei collaboratori. Leggevo, ascoltavo, e lo stesso Trapattoni l'ho ricostruito, del lavoro in profondità che Tardelli ha fatto, e cioè quello di andare a battere, ma letteralmente a battere, tutti gli... neanche gli stadi, i campi o gli stadioli, insomma, delle province, delle brughiere, per andare a cercare dei giocatori compatibili con un progetto nelle categorie inferiori, e da lì rinnovare sì, oltre al monitoraggio degli irlandesi che giocano nel campionato inglese, eccetera. No, ma è un lavoro in profondità, e onestamente, rispetto al livello tecnico, ai nomi, cioè, sono risultati stupefacenti per me, onestamente. D'altra parte, che questa Irlanda è un avversario, le devo oggi un'intervista a Tardelli in cui diceva: nel sorteggio, quando pescano l'Irlanda, si mettono a ridere prima, poi spesso piangono, però, perché non è un avversario comodo per nessuno. Io ricordo anche che la nostra nazionale, che sta crescendo così bene, e a me, tra parentesi, è piaciuta anche la sconfitta con l'Uruguay per molti aspetti, quando ha incontrato in amichevole l'Irlanda, beccato, insomma, cioè, è una squadra scomodissima da affrontare, certo. E lì Trapattoni dà il meglio di sé. Io poi parlando del Trap, sono combattuto fra due opposte sensazioni: una è la solidarietà generazionale, sì. La seconda è l'invidia. Perché? Vorrei avere avendo presso poco gli stessi anni, la stessa voglia, lo stesso slancio, la stessa così freschezza, proprio lo stesso entusiasmo. È vero, è vero, ecco. È verissimo. Senti, dopo l'intervallo parleremo di campionato, che insomma è il piatto forte del tuo intervento, però tu hai fatto un inciso adesso che vorrei sviluppassi in un minuto, e cioè i lati positivi che hai visto in questa sconfitta con l'Uruguay. Ma sì, vedi, bisogna partire dal presupposto. L'Uruguay, che adesso è una potenza mondiale, perché quarto posto al mondiale e vittoria della Coppa America in Argentina, cioè non giocata in casa, no. È tutt'altro, direi. È una squadra adesso assolutamente forte in assoluto, ma se parti praticamente fischi d'inizio da 0 a 1 diventa quasi imbattibile, cioè se può fare il proprio gioco, cioè aspettarti, picchiarti, intimidirti, assalirti, pressarti, eccetera, mette in campo delle qualità che possono portare a fare una bruttissima figura e anche a prendere non solo il primo gol ma il seguito. E invece l'Italia ha giocato bene in condizioni difficili, ha creato molto. Muslera, secondo me, ha fatto un paio di miracoli. Sì. E poi soprattutto è riuscita a giocare contro una squadra estremamente ostica, a fare qualche bellissima azione. Ma a me, ti dico, a me è piaciuta, se prescindo dai risultati, mi è piaciuta più l'Italia che ha perso in casa con l'Uruguay di quella che ha vinto in trasferta in Polonia, ma sono tutte e due ottime Italia rispetto alla base di partenza. Credo che Prandelli abbia fatto un lavoro eccellente, perché attualmente il gioco dell'Italia per me supera la somma dei valori singoli, che non sono eccezionali, specie nel reparto arretrato. Certo, completamente d'accordo, una volta di più. Allora adesso facciamo un intervallo più lungo per sentire come va sui mercati e poi cerchiamo di capire insieme, con l'aiuto di Alberto Bortolotti, quanto la classifica di oggi, in testa e in coda, cristallizzata da queste due settimane di sosta, potrà cambiare da qui al 21 dicembre, passando per questa lunga overdose. Torniamo in compagnia di Adalberto Bortolotti, del professore, per sentire per l'appunto come ti figuri questo mese abbondante, poco più di campionato, da qui al 21 dicembre, che sarà tra l'altro una tirata ininterrotta con turni infrasettimanali, recuperi e recuperi molto importanti, piazzati strategicamente per avere altri anticipi e posticipi. Insomma, saranno 33 giorni consecutivi di diretta televisiva, compresa la B e comprese le coppe, e di questo abbiamo parlato nei giorni scorsi. Ma sarà soprattutto saranno tappe che diranno, credo, cose più significative sulla classifica. Beh sì, adesso chiaramente la situazione è fluida anche per via di queste partite in meno che a squadre importanti come Juve, Napoli, Inter, lo stesso Genoa hanno. Attualmente la classifica è sicuramente più sorprendente nella parte alta, con una coppia di testa Udinese-Lazio, chiaramente non preventivabile da tutti, anche se la Juventus ha in teoria la possibilità del sorpasso, sì, con la partita in meno. Che nella parte di coda, dove in realtà l'unica anomalia è quell'Inter terz'ultimo, quart'ultima, che dir si voglia, per il resto più o meno siamo lì. Ecco, in partenza si pensava magari che Catania e Siena avrebbero fatto meno bene di quanto hanno fatto sin qui, e sono state squadre di grande encomio, come forse ancor più di loro l'Atalanta, considerata la penalizzazione sarebbe penso quarta o quinta, no? Io credo che quindi la situazione sia fluida. Questo è un campionato anomalo, tant'è vero che è partito dalla seconda giornata, sì, che già non è male, come già lì. Maria, insomma, no? Poi per il fatto che non è un campionato ad altissimo livello, io ho sentito dibattiti, c'è chi dice che è più interessante, e qui posso essere d'accordo, più equilibrato degli ultimi, quando c'era o una solo, al massimo un duello negli ultimi anni. Adesso sicuramente l'area di vertice è spalmata su più squadre, però credo che il caso dell'Udinese, che è prima, essendo oggettivamente più debole dello scorso anno, perché ha perso pezzi da 90 senza trovarne altri, basta vedere come ha chiuso il bilancio, e ecco, questo dimostri che a livello tecnico non siamo su livelli particolarmente significativi. D'altra parte il nostro movimento ha perso dei fuori classe, da Eto'o o dei grandi prospetti come Pastore o lo stesso Sanchez, andato al Barcellona, e non mi pare di ricordare che siano arrivati dei fenomeni, tranne forse uno che però anagraficamente considerato in parabola discendente, che è Close, certo. Sul quale allargherei il discorso, perché secondo me, considerato appunto questo campionato non particolarmente ricco di valori tecnici, la Lazio per me ha chance di giocarsela più di ogni altra presunta outsider. Mi sembra la più solida al di là delle grandi tradizionali, è in grado di reggere sin quasi in fondo. Devo dire che Lotito, con tutti i suoi difetti, i suoi limiti, ha fatto un lavoro fantastico sotto il profilo tecnico, lui e i suoi collaboratori, e l'acquisto di Close è effettivamente stata un'idea geniale. Ecco. Quindi la Lazio come terza forza, considerando che le prime due sono Juventus e Milan, e che l'Inter si è chiamata fuori. L'Inter già oggi vedevo un piano per arrivare terza, insomma mi pare che sia già un traguardo ambizioso arrivare terzi a questo punto. Certo. Arrivando più in dettaglio alla ripartenza di campionato dopo questa lunga sosta, io noto un paio di cose. La prima è che credo che la partita più significativa di domenica prossima sarà Juventus-Palermo, più ancora di Napoli-Lazio, per questa ragione. Già il dopo sosta, un minimo di incognita sempre ce l'ha. La sosta della Juve è di una settimana più lunga per via del rinvio di Napoli. La Juventus era molto lanciata ed era al massimo. Credo che questa sosta così lunga potrebbe averla, cioè se ha danneggiato una squadra ha danneggiato la Juve. Se riesce a ripartire con la carica con cui si era fermata, io credo che sarebbe un segnale molto ma molto significativo. Sì, anche perché il Palermo uso esterno sin qui non ha rappresentato un pericolo estremo, ecco, diciamo tutt'altro. Insomma, il Palermo ha un ruolino di marcia casalingo straordinario. Se solo avesse avuto un rendimento in trasferta appena normale, sarebbe in testa con Udinese e Lazio, insomma, visto che poi non è tanto lontano. Però devo dire che è vero quello della sosta, è anche vero che leggendo una formazione probabile della Juventus, quasi tutti i giocatori sono stati impegnati con le nazionali, molti con la nostra, sì. Anche Pepe, per Marchisio, Buffon, Pirlo, Chiellini, Matri, Vucinic ha fatto anche gli spareggi con risultati non eccezionali, ma sicuramente ha dovuto tenersi in forma. Insomma, mi pare che non abbia avuto il tempo di oziare, ecco, come poi è chiaro che il ritmo del campionato è un'altra cosa, e anche il fatto di giocare insieme è diverso. La Juventus è una squadra molto interessante, io credo, a me la stagione incuriosiva per due tecnici, Conte e Luis Enrique, che erano poi le novità, sì, diciamo. Sì. Luis Enrique era una novità assoluta anche per la Spagna, perché anche là non aveva mai allenato ad alto livello. Mai in prima divisione. Conte veniva da una bellissima gavetta condita da promozioni in Serie A che contano, però il salto alla guida di una grande squadra può essere sempre traumatico. E devo dire che sin qui Conte mi è molto piaciuto, anche perché era partito con un'idea e ha avuto l'umiltà di cambiarla. Come la Juventus ha cambiato modulo tattico in dipendenza delle caratteristiche dei suoi giocatori. Quando un tecnico arriva a questo, per me ha già fatto molto, perché ci sono quelli che si impuntano su un modulo e lo considerano uscito dal Vangelo e quindi il dogmatico e immutabile. E Luis Enrique aspetto ancora un po', però non mi è dispiaciuto, perché la Roma ha avuto un inizio agghiacciante, ma mi pare in ripresa e ha questo tentativo di gioco spagnolo che non è trapiantabile in toto da noi. Tutto sommato mi pare che abbia trovato un'accettabile mediazione, non c'è più quel possesso esasperato che una volta resisi conto Luis Enrique, che un conto è farlo con Messi e uno con Borini, con tutto il rispetto, un prospetto interessante. Ecco. Adalberto, ci restano soltanto 30 secondi, ti chiedevo una battuta sul Napoli, perché mi sembra che sia rimasta fuori, mi sembra sia rimasto fuori il Napoli da queste... Napoli secondo me ha pagato moltissimo un girone tremendo di Champions League. Sì. Che lo ha costretto a partite di grandissimo dispendio, ha fatto una partita a Manchester straordinaria. Sì. Col Bayern ha avuto una partita tutta in salita in casa che l'ha portata al pareggio, ma con una enorme fatica e un inutile, agli fini dei risultati, anche se molto generoso entusiasmante, ritorno a Monaco partendo dallo 0-3 e arrivando a sfiorare l'impresa. La stessa partita con Villarreal non è stata uno scherzo. Ecco, credo che in campionato il suo ritardo sia dovuto principalmente a questa complicazione che ad esempio la Juve non ha. Se il Milan, e concludo il mio ragionamento, resta per me il favorito perché è la squadra più completa, però può giocare sicuramente a vantaggio della Juve questa esenzione dagli impegni di Coppa. Innegabile. Onori, ma anche oneri, evidentemente, quando poi si devono mettere insieme le scorie dell'una e dell'altra competizione. Adalberto, grazie. Grazie a te, a risentirci. A presto. Napoli che poi, tra l'altro, per chiudere il ragionamento di Adalberto Bortolotti, Napoli che ha dovuto investire tesori di energie fisiche e mentali in Coppa, ma la vera partita chiave, la vera partita decisiva, la deve ancora giocare, ed è quella di martedì sera a Napoli contro il Manchester City in quello che è il vero e proprio spareggio. 17 novembre, vediamo oggi che anno ha scelto e che avvenimento Nicola Filippone per la rubrica della Marcord. Sembra ieri. 17 novembre 1968. All'Olimpico la Roma di Elenio Herrera esce tra i fischi. Il Cagliari di Scopigno si impone infatti con un netto 4-1, con una doppietta a testa per Brugnera e Gigi Riva. L'impresa dell'Olimpico rappresenta una delle prime prove di forza per il Cagliari, che chiuderà il campionato con un sorprendente secondo posto, trascinata dai 20 gol del capocannoniere Riva. L'anno successivo, la squadra sarda dimostrerà che l'esploit della stagione precedente non era stato un caso, conquistando un leggendario scudetto. Non è ovviamente l'unico avvenimento di questo giorno, il 17 novembre. Per esempio, sempre Nicola Filippone mi segnala il 2-0 all'Olimpico dell'Italia di Bearzot sull'Inghilterra, che spianò la strada alla qualificazione verso i mondiali d'Argentina. Fu in realtà la partita che lanciò una volta per tutte quella nazionale in una dimensione europea molto diversa da quella degli anni precedenti, e in particolare una sequenza che è difficile dimenticare è quella di uno straordinario gol in tuffo di testa di Bettega, il gol del 2-0 a un quarto d'ora alla fine su un cross di Benetti da sinistra, e questo strepitoso tuffo alla riva, alla Bettega, insomma, per questo grande gol. Aldo ha chiamato da Siena, buongiorno. Buongiorno, grazie. Dica. Allora, senta, io avevo due domande. Sì. Tempo fa, ho sentito, tre o quattro giorni fa, in una trasmissione di una radio locale in Toscana, dopo la sentenza, dopo la sentenza del tribunale ordinario su Moggi, un signore, era un suo collaboratore alla Juve, non so se posso dire il nome, ma lo diceva alla radio, quindi questo signore si chiama Nello De Nicola, io non so chi è, non so, era un collaboratore di Moggi, che sosteneva ancora che Moggi non aveva fatto niente, lo facevano tutti, era una cosa normale, non c'erano, cioè, non so se questo signore si rende conto che è stato condannato in primo grado, sì, ma da un tribunale della Repubblica. Sì, Aldo, però non ci rendiamo conto un po' tutti insieme che stiamo parlando di cose vecchie e sepolte, no? Sì, è vero, ma quello sì, che volevo dire io è che se la addetti a lavori che sono ancora nel calcio continuano a sostenere che fatto niente, allora... Ma fanno il loro gioco e magari sono anche in buona fede, magari sono anche convinti, io non lo so, cioè, ma soprattutto se lei sente una tesi come questa su una radio privata toscana qualche giorno fa, siamo proprio certi che abbiamo il piacere di riascoltare queste amenità anche su una rete invece un po' meno locale e un pochino più diffusa? Io ho qualche dubbio su questo, pur con il piacere di aver ascoltato lei, intendiamoci. Maurizio Verona, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Mica. Niente, io volevo fare una piccola considerazione sul presidente della Juve, che secondo me sta esagerando un po', nel senso dovrebbe guardare più la società, la squadra, sul lato sportivo, che fa andare avanti sempre con questa storia. È meglio che ci mettano pietra sopra e pensi al futuro della squadra e della società. E poi un'altra cosa sul campionato, io spero che questo campionato di calcio sia l'insegna delle provinciali, nel senso, come è successo a Verona, che l'Udinese abbia l'opportunità di andare più avanti possibile con questi risultati, ecco, di avere anche un po' di soddisfazione, ecco, per non avere sempre le solite squadre, insomma, certo. Anche se c'è il Milan che insomma sta venendo su proprio la sì grande. Si sta venendo su, indubbiamente sta venendo su, grazie Maurizio. Dunque gli arbitri, così anche ricordiamo quali sono le partite clou di questo fine settimana. Napoli-Lazio è un clou certamente, ed è stato non a caso affidato a Rizzoli. Fiorentina-Milan a Mazzoleni, Juventus-Palermo domenica a Bergonzi, e il posticipo serale Roma-Lecce invece a Brighi di Cesena. Continuano a fioccare agenzie sul tavolo. Una leggo con piacere perché mi sembra sacrosanta. Il presidente della Fiorentina, che si chiama Cognini, Mario Cognini, a proposito di questa idea del tavolo su Calciopoli e sul passo avanti annunciato ieri Andrea Agnelli proprio in direzione di questo tavolo, dice l'iniziativa di un tavolo è un'idea piuttosto datata, questo è il commento del presidente della Fiorentina, perché il nostro patron Diego Della Valle aveva lanciato la stessa idea che non era stata accolta da nessuno, e mi pare una legittima rivendicazione perché è di qualche tempo fa, non so dire se un mese o due, questa idea che era completamente caduta nel vuoto da parte di Diego, non del presidente della Fiorentina ma dell'azionista di maggioranza della Fiorentina, cioè di Diego Della Valle. Alessandro dalla provincia di Treviso, buongiorno. Buon pomeriggio. Volevo intervenire proprio sul tavolo della discussione del calcio. In maniera molto concreta butto lì degli argomenti come riportare la Serie A a 16 squadre, le rose dei giocatori come in Champions, quindi 25 fissi e eventualmente i giocatori giovani della primavera. Facciamo 22 più primavera, va? Vabbè, lei ha deciso di essere liberale. Questo mi sembra un bel tavolo comunque. Poi, secondo me più valore alla Coppa Italia, dandogli magari un posto in Champions, sì, alla vincente ovviamente. E, multe o quantomeno sulle dichiarazioni di presidenti, che quest'anno mi sembrano un po' meno pesanti rispetto agli anni scorsi. Non si illuda. Molte più certe, cioè nel senso che non è che ognuno può parlare, o meglio, ognuno può dire la propria, sempre nel rispetto delle opinioni. Ma sapendo che può pagare dazio, dice lei. No? Esattamente. Uh-huh. E un altro, secondo me, connubio importante, già nelle trasmissioni di ieri si è parlato di stadi vuoti o quantomeno non pieni con le televisioni che fanno da padrona. Io proporrei, come in America, che ho sentito che mandano in diretta le partite se raggiungono un tot di percentuale di vendita di biglietti, ma credo più di 70% dei posti venduti. Alessandro, non lo faranno mai questo tavolo, perché i tavoli dove c'è da... faranno il tavolo sotto il quale qualcuno dovrebbe andare a nascondersi, come ha chiosato prima autorevolmente ad Alberto Bortolotti dall'alto della sua saggezza. Questo sarebbe un tavolo saggio, quindi non se ne parla proprio. La ringrazio tutti gli intervenuti e gli ascoltatori, ringrazio Franco Piantanini in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Vi lascio al giornale radio.